Ma noi ci colleghiamo a quello che stava dicendo Michele, perché se forse all'inizio vi sembrerà che ci allontaniamo un attimo da questo tipo di discorso, in realtà credo che quello che stava andando dicendo Michele si vada poi a collegare fortemente con una parte di quello che vediamo in questi minuti e probabilmente, ma spero di non interpretare male l'apsus, anche quello che lo stesso lapsus andrà a dire, perché fa parte, in fin dei conti, di una quotidianità che noi nel fare ricerca, nel proporre un nostro metodo di lavoro collettivo, incontriamo. In questo momento stavamo parlando e anche Alfredo stava anticipando poi le nuove tematiche che dovevamo discutere sulla questione dei fonti anche digitali, di internet, che quotidianamente oramai noi utilizziamo anche per fare ricerca, come uso delle fonti, ma dall'altra parte, ci arriveremo verso la fine perlomeno della nostra presentazione, diventano anche un mezzo fondamentale di produzione di significato e di conoscenza che vorremmo e quotidianamente utilizziamo poi per portare verso l'esterno quello che andiamo ricercando. Quindi ha un doppio binario che molto spesso si incrocia, perché è produzione di significato e contemporaneamente si trasforma in una fonte che poi qualcun altro può utilizzare. Quindi c'è questo continuo intreccio che a nostro avviso è uno di quegli argomenti che oggi nel fare storia andrebbe discusso sia dal punto di vista del uso della fonte, ma anche del uso del mezzo per produrre educazione, per produrre laboratori, per produrre tutta quella strumentazione che secondo noi uno storico deve avere nel suo portafoglio per poi fare cultura e conoscenza verso l'esterno. Ma questo ci arriviamo e probabilmente Lasso stesso arriva anche lui a gamba tesa. Noi partiamo quindi, allontanandoci un momento dall'uso delle fonti, da questo concetto e da questo studio su YouTube, e partiamo dalla nostra presentazione, proprio da come siamo nati, da quello che stiamo cercando di fare, perché fondamentalmente noi siamo nati da 4-5 anni, si parla del 2007, e nasciamo dal fatto che molti di noi adesso siamo in quattro, ci sono stati momenti in cui eravamo cinque, poi siamo orientati perché uno si è allontanato dal gruppo, ma fondamentalmente siamo nati perché contemporaneamente tutti ci sentivamo di vivere una condizione che è molto personale, molto umana, ma anche molto forse del presente, di oggi, di disagio di fronte a un mondo che era in quel momento nostro storico, quello dell'uscita dall'università, che non ci pareva essere ben connesso rispetto alle nostre aspettative, a quello che pensavamo sarebbe poi stato il nostro approccio a magari un mestiere che pensavamo di fare, o magari semplicemente a tematiche, argomenti che ci interessavano fortemente, ma che non trovavano corrispondenza con quello che sentivamo. Quindi nasce da un disagio che è molto interno, molto personale. Noi nel saggio che qui abbiamo scritto andiamo proprio dicendo che è una cosa che ci tocca nel vivo, nella carne, nel sangue, non è così facile da spiegare, ma non è così facile da spiegare proprio perché è anche a nostro avviso un disagio che nasce dalla mancanza di un linguaggio che possiamo condividere che possa rappresentare questo tipo di percezione che abbiamo del presente. Certo è che noi uscivamo da un mondo universitario, da un approccio alla storia che non ci vedeva completamente rappresentati, nel senso che noi abbiamo portato qua, normalmente in altre presentazioni e in altre discussioni le abbiamo proiettate, ma abbiamo portato delle tavole che ci sono state disegnate da una nostra amica illustratrice, che però rappresentano quello anche emotivamente e figurativamente, adesso non le alziamo, le facciamo vedere una alla volta, vogliono rappresentare. Quindi la prima rappresenta fondamentalmente, ci piace perché pensiamo che possa rendere forse anche meglio delle parole che io stesso utilizzo, proprio perché a volte mi mancano e ci mancano le parole. Questo rappresenta la nostra precarietà. E c'è questo uomo sulla ferrovia, nel circo della vita, che sta cercando di rimanere in bilico sui binari. I binari di un treno, adesso lo giriamo anche dall'altro lato, perché abbiamo usato come figura retorica, come immagine, quella del treno per rappresentare la nostra situazione, il nostro disagio. E questa figura è questa: noi ci siamo sempre immaginati come dei gas all'interno del mondo universitario, ma anche usciti dal mondo universitario nell'approccio alla disciplina e a voler anche farla e utilizzarla come mestiere della vita. Cioè, un gas all'interno di una carrozza di un treno cosa fa se voi mettete la canna del gas dentro a un finestrino? Cercherà di occupare tutto lo spazio possibile, e finché non avrà colmato la carrozza cercherà di non andare in contatto con le altre particelle di se stesso, quindi occupa tutto e solamente verso la fine è costretto a entrare in conflitto, in contatto con le altre particelle, con gli altri individui. E la nostra percezione del mondo universitario, degli amici, delle persone che vivevano quel mondo anche proseguendo negli studi, pensiamo soltanto al dottorato, ai master, ai ricercatori, ci riportavano immagini di questo genere, cioè un mondo in cui il narcisismo interno dell'individuo che deve, per forza di cose, se vuole rimanere a galla e in bilico in questo mondo, produrre significati, ma a nome proprio, qua torniamo anche alla firma del materiale, dei saggi, degli articoli che vengono scritti, perché quelli fanno il tuo curriculum, e senza di quelli tu in questo tipo di conoscenze, in questo tipo di università e di lavoro non sei nessuno. Così anche all'interno quindi della nostra quotidianità vediamo come storici, ma anche come persone che tendono ad avere come interesse la storia, la ricerca, che non è per forza di cose solamente storica, può essere di qualsiasi tipo di disciplina, tendono a cercare il più possibile di non entrare in conflitto, e quando si entra, non entrare in contatto, e quando si entra in contatto tipicamente ne nasce un conflitto, nel senso, pensiamo soltanto all'approccio storico, noi che abbiamo un po' bazzicato per forza di cose gli istituti storici collaborando su laboratori, ricerche, bazzichiamo tuttora, abbiamo conosciuto ricercatori, abbiamo visto il farsi di ricerche e anche con quanta cura ogni singolo ricercatore, qui non vogliamo generalizzare, però passateci un attimo questo sorta di sfogo che deve durare poco e quindi per forza di cose tenderà un po' a generalizzare, tendono a difendere le fonti e l'oggetto del loro studio fin tanto che non è arrivato alla conclusione. Cioè abbiamo davvero visto persone che non si passano fisicamente documenti nel mentre stanno facendo quasi la stessa ricerca, che dal punto di vista della qualità anche del progetto, del risultato finale, è una follia, perché non si spiega come mai non si pensi che la conoscenza condivisa porti a un risultato migliore. Lo diciamo, ovviamente tutti noi lo condividiamo quotidianamente, però lasciamo che sia un modo di fare che ci tocca tutti i giorni e non sappiamo come fare. Benissimo, è vero, noi stessi non abbiamo trovato delle soluzioni, certo è che questo disagio lo abbiamo condiviso e possiamo dire forse che da questo disagio siamo nati e abbiamo cercato di portare avanti in modo deduttivo un modo di fare storia che parte prima di tutto da un metodo che volevamo condividere e co-costruire insieme in modo collettivo, e per questo è nata l'equipe è nata fondamentalmente sull'idea: pensiamo, proponiamo un metodo che ci porti fuori da questo disagio che percepiamo nel fare storia, nell'approccio alla nostra disciplina e alle discipline di chi ci sta attorno, che tipicamente nel nostro caso, ma in realtà abbiamo conosciuto anche persone che si occupano di scienze più esatte, fisici e matematici, però che normalmente toccano le scienze umane. E quindi abbiamo iniziato a ragionare non soltanto su che cos'è la storia per noi, ma anche su come si fa oggi la storia, su come a nostro avviso ci dovrebbero essere dei cambiamenti e sul fatto che a nostro avviso ci sono c'è fondamentalmente un paradigma di riferimento che andrebbe un attimo rivisto e probabilmente, per quanto ci riguarda, abbattuto semplicemente per portarlo avanti nella speranza che qui qualcuno abbatta il nostro. Non è mai la costruzione di un monolite, questa è la verità di come deve essere fatta la ricerca. Certo è che siamo andati a impattare contro un metodo, che è quello storiografico attuale, che non solo non ci convince, ma secondo noi ha anche forti lacune. Giusto per farvi un esempio, per entrare anche nel pratico, l'ultima ricerca che stiamo svolgendo, perché ci è stata commissionata e quindi ha un po' bloccato la nostra ricerca privata che volevamo portare avanti con il nostro metodo, ci ha però portato in contatto con tantissima bibliografia di fonti fotografiche, di libri di storia fotografica, quindi storia fotografica di tal dei tali, storia fotografica di... Allora, con questi libri in mano, semplicemente, voi andate a vedere, guardate le foto, bellissima questa foto, dove l'ha presa? Non c'è da nessunissima parte la provenienza di questa foto, così come non c'è una riflessione sul perché è stata scelta quella foto e magari lasciate da qualche parte del cassetto tante altre foto. Secondo noi, ad esempio, e poi vado avanti, un approccio sulla fonte deve essere per forza di cosa fatto collettivamente, perché prevede che noi insieme si va ad esempio all'interno di un archivio e la scelta delle fonti è già digerita, masticata tra di noi e discussa, perché non ci si pensa forse abbastanza, ma è una delle parti più importanti di qualsiasi lavoro di ricerca storico, è sì la domanda, ma è anche dopo quali sono le fonti che hai deciso di utilizzare, ma soprattutto quali sono le fonti che hai lasciato a casa, che non hai utilizzato all'interno della tua ricerca. E qui buttiamo semplicemente alcune cose. Fatto sta che siamo nati su questa riflessione. Volevo, proseguendo il ragionamento, seguendo anche le tavole, provando anche a ricollegarci a quello su cui ragionava prima Michele, sulla... Prendiamo YouTube, quindi i video che vengono utilizzati su YouTube, te parlavi, dicevi che YouTube adesso può essere visto come un archivio all'interno del quale oggettivamente abbiamo milioni di video. Te hai fatto l'esempio della questione del Kosovo, hai portato l'esempio della questione albanese dicendo se io ricerco un video riguardante il conflitto e utilizzo come parole il termine albanese, molto probabilmente troverò un video in lingua albanese che ovviamente mi riporterà la storia da quel punto di vista. La nostra seconda tavola, che possiamo vedere, è 1 più 1 uguale 3. Cioè, con questo paradigma, cosa vogliamo provare a descrivere? Il fatto che noi in questo momento siamo quattro persone profondamente differenti tra di loro, che decidono di utilizzare le differenze che sono aperte e sono vive sotto tanti punti di vista per provare a trovare un nuovo punto di vista che non appartiene né a me né a nessuno di loro, ma a questa nuova realtà che noi chiamiamo equipe. Quando noi definiamo appunto 1 più 1 uguale 3, vuol dire che noi prendiamo il nostro differente modo di ragionare che va a convogliarsi con le differenze, con gli scontri, creando un nuovo punto di vista. Per tornare su YouTube, se io sono un ricercatore e mi trovo a dovermi rapportare con una fonte, con un documento, che sia in un archivio tradizionale, analogico, che sia all'interno di un archivio digitale, io verrò in qualche modo influenzato da due fatti. Uno, il mio punto di partenza. Quindi io sono qua per questo motivo, perché sto svolgendo questa ricerca e sto seguendo il mio ragionamento. L'altra cosa che mi influenzerà sarà la fonte stessa, che io vedrò e che cercherò, per quanto possa tentare di applicare una sorta di epoché, sicuramente la andrò a contestualizzare all'interno di un mio ragionamento. Quindi prendiamo il video albanese sulla questione kosovara e io posso essere influenzato da quel documento se non ho una conoscenza abbastanza approfondita, in quel momento dell'argomento che sto affrontando, io posso essere influenzato da quella fonte. Se noi quella fonte l'analizziamo in quattro, in tre, quelli che siamo, vuol dire che automaticamente quattro persone differenti avranno una fruizione diversa della stessa fonte. Questo poi che cosa comporta? Che nel momento in cui noi quattro ci dobbiamo trovare a ragionare sul documento che abbiamo sotto mano, avremo quattro punti di vista differenti. Farà sì che noi potremo analizzare la fonte, non voglio dire né peggio né meglio, ma sicuramente cercando di darle più respiro possibile. Quindi non avendo un unico canale da seguire, che è dettato comunque dalla persona e dal proprio background culturale e da quello che sta cercando, ma da quattro differenze, da quattro diversità che tentano di creare e di costruire qualcosa di nuovo, in modo tale da non cadere nell'inghippo che poi si diceva appunto sulla necessità che lo storico ha un potere enorme, che è quello dell'omissione. Se io decido che un qualcosa nella mia ricerca non deve venire fuori, non ho nessuno che mi impedisca che ciò non accada. E io comunque mi posso tranquillamente attenere agli archivi. Non sto portando a fare notizie sbagliate, o semplicemente decido di non parlare di una cosa. In quattro, vi posso assicurare, perché l'abbiamo vissuto sulla pelle, questo è già molto più difficile. Perché se lei ha un'idea in testa e la sta esprimendo, io non sono d'accordo, e nel suo esprimerla lei omette un altro punto di vista, io sono il primo a intervenire nel suo ragionamento. Questo fa sì che l'omissione non la si può ovviamente eliminare, ma sicuramente la si può cercare di diminuire il più possibile. Si può cercare con questo 1 più 1 uguale 3 di dare vita a un pensiero altro che sia l'unione di più ragionamenti. Quindi anche e sempre sulla questione della firma collettiva, che spesso non viene accettata come idea, in questa pubblicazione che abbiamo da fare la casa editrice ha rifiutato di metterci solo la firma collettiva, vuole i nostri nomi. Abbiamo dovuto cedere e abbiamo dovuto dare i nomi singoli, ma non ha un senso di per sé, perché per noi che ci presentiamo come equipe sperimentale di storia, il pensiero che stiamo proponendo è il pensiero dell'equipe sperimentale di storia. Di conseguenza la nostra firma già esiste nel pensiero che stiamo esprimendo e non c'è necessità di andare a specificare chi ha pensato cosa e in che modo. Stesso motivo per cui proviamo a portare avanti un discorso di scrittura collettiva. Perché la scrittura, vai, vai. Qui c'è un punto fondamentale che poi è anche espresso dalla terza tavola, così la alziamo, perché è proprio quello che noi nel messaggio che stiamo scrivendo, che stiamo continuamente ormai cambiando, è chiamato paradigma della sostenibilità, cioè il riferimento a un'ecologia della mente, a una sostenibilità dei concetti e delle idee, che è la messa in discussione fondamentalmente del proprio sé. Che questa è una cosa che può capitarci di trovare all'interno delle ricerche storiche fatte da singoli storici nelle monografie, ma è un punto che a nostro avviso non viene abbastanza fuori quando poi andiamo a leggere i libri, cioè l'avere consapevolezza di essere un individuo che ha avuto una propria storia alle spalle e che per questo motivo andrà a riflettere, ad analizzare, a interpretare le fonti seguendo la sua storia personale. Fenomenologicamente è un cambio di paradigma per quanto ci riguarda, perché significa mettersi in discussione, ma mettersi in discussione per arrivare a un punto alto che non sono più io singolo. E questo è molto complicato da fare, e vi diciamo che probabilmente non ci siamo ancora arrivati nemmeno noi, perché è un'attività che va fatta nella quotidianità, venendo anche qui in macchina e avevamo da discutere su questi concetti. Certo è che a nostro avviso, come altri collettivi come Wuming hanno parlato di una nebulosa, anche nelle discipline come le nostre, come quelle umanistiche, come quelle scientifiche, il pensiero della possessività di un'idea, di un concetto, di un argomento è buffa, perché qualsiasi concetto, qualsiasi idea che noi mettiamo in campo, analizziamo, fa parte della collettività per il semplice motivo che è l'unione e la commistione di tanti stimoli culturali che ci derivano dagli incontri di tutti i giorni. Pensare che quello che andremo a scrivere, magari domani, magari preparando un articolo su questa giornata, sia un nostro concetto, significa far finta che non ci siete voi tutti qui e che non abbiamo discusso prima con Alfredo, non abbiamo discusso con Michele. Fa parte di una co-costruzione dei significati, e riuscire a renderla è importante, anche se effettivamente ancora noi stessi non siamo arrivati a una sintesi, a un punto finale. Pensiamo di essere in mezzo a un guado, proprio come tempo anche, e vediamo sempre di più negli incontri che abbiamo fatto che ci sono tanti gruppi, tante persone che condividono questo nostro modo di pensare, questo nostro modo di approcciare le discipline umanistiche, perché abbiamo incontrato altri ragazzi che hanno anche loro dei gruppi di storia, possono essere quelli di razza partigiana che sono di Roma, abbiamo incontrato l'APS proprio l'anno scorso in uno di questi eventi, abbiamo incontrato in questo caso in parte un po' i Pimetti, gruppi di filosofia, gruppi di matematici, abbiamo trovato un gruppo Serpicanaro che è un collettivo di Sartre, di moda fondamentalmente, e sempre di più ci pare stiano aumentando e sia, lo stavo dicendo anche altri, come primo nodo sempre di più l'approccio, e poi torniamo ai nuovi media, quindi ai media in generale e a internet anche, sempre di più lì dentro andiamo a trovare che la creazione dei significati è data da questo genere di attività, che è gruppo, non più individuale. Poi non so da quanto stiamo parlando, ma andiamo verso la chiusura, perché secondo noi ci piacerebbe, sarebbe da discutere tra di tutti, quindi abbiamo 2 ore per discutere di quello che stiamo dicendo, arrivare al punto finale. A nostro avviso, nella nostra disciplina, quindi nella necessità che crediamo ormai di avere, e spesso anche se non l'abbiamo detto con le parole, dell'interdisciplinarità, che non è la semplice unione di più discipline, ognuna fa l'analisi sullo stesso argomento, quindi noi storici facciamo l'analisi storica, poi chiediamo a degli psicologi, a dei sociologi cosa ne pensano e mettiamo un capitoletto scritto dal sociologo all'interno del nostro bel libro, e il sociologo dice la sua, io dico la mia, il pedagogista dice la sua. Non è quella semplicemente, non è così semplice a nostro avviso l'interdisciplinarità. Certo è che arriviamo qui, arriviamo al fatto che le nostre discipline ci pare arrivino al punto finale sull'articolo, sul saggio, sulla monografia, un byte su un articolo online, e pensano di avere chiuso il loro lavoro, mentre secondo noi è fondamentale aprirlo in quel momento, cioè tutta la discussione che anche storiograficamente, anche come metodo, come storici in questo caso, dovremmo fare sulla distribuzione delle idee, sull'approccio educativo da tenere nei confronti di una classe scuola, ma può essere un gruppo informale di ragazzi, possono essere tante tipologie di pubblici diversi, e bisogna discutere quel punto. Noi scherzosamente nel saggio diciamo che siamo fermi al capitolo 5 di Bloch, in Apologia della Storia, dove volevo un po' analizzare anche questa parte dell'aspetto educativo e di dove porto poi la mia ricerca, perché non l'ha scritto, e sappiamo perché tutti, e siamo fermi lì a nostro avviso. Noi ci stiamo provando probabilmente perché anche dal punto di vista lavorativo siamo arrivati tutti, al di là degli istituti storici, anche alle cooperative che fanno educazione, ci chiedono laboratori, ci chiedono di costruire percorsi didattici, però sono tutti argomenti che non troviamo discussi nella nostra disciplina e ci fanno sentire soli non più come individui in questo caso, ma come gruppo, però siamo lì, cioè discutiamo noi come costruire un impianto, un laboratorio didattico, come scrivere un articolo in una forma più appetibile. Tutte discussioni che stiamo iniziando, abbiamo iniziato, e che però hanno un unico nodo centrale nel nostro caso, che è quello della scrittura collettiva. Perché fare storia, come fare anche altre discipline, significa per forza di cose scrivere. E non possiamo pensare di esulare dal nodo scrittura collettiva nel nostro voler fare storia collettivamente. Ed è per questo che ci ha interessato tantissimo, e tuttora ci interessa, tutti gli apporti che danno Wuming piuttosto che SIC, che è la scrittura industriale collettiva che abbiamo conosciuto, perché loro stanno portando avanti anche metodi di scrittura collettiva che noi non avevamo pensato, ma che probabilmente sono la chiave anche per noi per arrivare in modo più chiaro a quello che stiamo cercando di fare, cioè storia collettivamente. Certo è che i punti da discutere sono tanti, e non ultimo, così ci ricolleghiamo anche a Michele, proprio quello di i nuovi media, le forme di comunicazione che sono, possono essere internet, perché anche queste, la non conoscenza o l'uso, il loro uso un po' faticoso, come può essere per noi, perché alla fine forse siamo di una generazione precedente, non siamo dei nativi digitali, su questo è sicuro, e quindi anche noi abbiamo bisogno in questo caso di migliorare, anche perché poi l'insegnare l'uso di questi strumenti ai ragazzi e ai bambini è poi fondamentale per dargli la possibilità anche in campo storico di accedere a tutta quella mole di documenti, di spunti con cui poi loro potranno fare la loro personale analisi del presente, perché noi non diamo questo è il presente, diciamo come va interpretato, noi vi diamo gli spunti, vi diamo, diciamo che strumenti abbiamo utilizzato, diciamo che fonti abbiamo utilizzato, quindi vi diamo una bussola di riferimento, ma la strada va trovata da ognuno seguendo il percorso che meglio crede. Quindi noi siamo qui dentro, ci piacerebbe discutere, ne avremo tantissime altre cose da dire, ma ci fermiamo qui adesso.